Storie italiane. Il cavaliere del pesce. C'era una volta, in un regno lontano, un giovane di nome Ralph. Ralph era un bravo ragazzo, ma era sempre molto sfortunato. Faceva del suo meglio per guadagnare abbastanza denaro per sostenere se stesso e sua moglie, ma era sempre una lotta. Doveva sempre accettare di fare lavori strani per la gente del suo villaggio di Pasadena. Un giorno, Ralph era al lago a pescare nella speranza di catturare abbastanza pesce da vendere al mercato e da mangiare insieme a sua moglie. Ma dopo ore e ore seduto sulla riva a tirare l'amo, Ralph era riuscito a pescare solo lo sporco che galleggiava a riva. Non sono nemmeno riuscito a pescare mezzo bocconcino. Cosa potrò dire mai a mia moglie? Stava per arrendersi e andare a casa quando sentì un gemito pietoso dietro di lui. Cos'è stato? Ralph si voltò e vide un nano con la sua lunga barba impigliata alla radice di un albero. Fu sorpreso di vedere il nano e non sapeva cosa fare. Aiuta Tony, perché la barba di Tony è bloccata da questa radice dell'albero. Certo, ma dov'è Tony? Io sono Tony il nano. Sì, certo, lascia che ti aiuti. Districò con molta attenzione la barba di Tony dalla radice dell'albero. Dato che mi hai aiutato, farò qualcosa per te. Detto questo, si tolse dalla tasca una pietra lucente e la diede a Ralph. Ricorda, ogni volta che... All'improvviso sentirono un lupo ululare. Oh no, un lupo! Devo andare! A presto! Ma Tony, ricordare cosa? Ralph guardò Tony correre e scomparire dietro gli alberi. Diede un'occhiata alla pietra. Era lucida e di colore viola. Forse è una pietra preziosa. La venderò al mercato. Fino ad allora fammi vedere se riesco a prendere qualche pesce. Si mise la pietra in tasca e si sedette di nuovo con la sua canna da pesca. Aspettò e attese ancora e ancora e non prese nulla. Perdendo la speranza, disse ad alta voce: «Vorrei poter prendere un grosso pesce». Non appena lo disse, un enorme pesce arrivò sulla riva, più grande addirittura di Ralph. «Non ho mai visto un pesce così grande. Potrei nutrire un intero villaggio con un pesce di queste dimensioni. Come farò a portarlo a casa?» Ralph pensò fra se stesso ad un altro desiderio impossibile. «Vorrei che il pesce potesse trasportarmi». E voilà! Il pesce iniziò a muoversi, scivolò sotto le gambe di Ralph e iniziò a saltare verso Pasadena, portando Ralph sulla schiena come un cavaliere su un cavallo. Ralph iniziò a sospettare che la pietra potesse essere magica. Continuò a cavalcare. Il villaggio di Pasadena si affacciava sul bellissimo castello del re Monaco. L'intero villaggio aveva sentito molte voci sul re Monaco e sulla sua famiglia. Si diceva che la regina fosse allegra e sempre sorridente, ovunque e comunque. Il re l'amava per questo. Un giorno, quando la regina morì improvvisamente, il re Monaco divenne così triste che bandì le risate in tutto il castello. Il re Monaco aveva una figlia chiamata Viola. Da quando aveva proibito le risate, anche la principessa Viola aveva smesso di ridere. Era bella ed elegante, ma senza risate sembrava senza vita e triste. Andò avanti senza ridere per così tanto tempo che semplicemente non sapeva più ridere. Presto il re Monaco si rese conto del suo errore e decise di provare a far ridere sua figlia. Vennero chiamati tutti i migliori giullari, comici e sapientoni del regno, ma nessuno di loro riusciva a farla sorridere. Alla fine radunò i suoi ministri e saggi per aiutarlo a far sposare sua figlia. Chiunque riesca a far ridere mia figlia, la principessa Viola, verranno assegnati 50 milioni di monete d'oro e la mano di Viola in matrimonio. Gli uomini furono felici di sentirlo. Nel frattempo, la principessa Viola si sporse dalla finestra della sua camera da letto e vide qualcosa di insolito nelle strade sottostanti. A prima vista, sembrava un uomo che cavalcava un pesce gigante. Presto, fu ovvio che era un uomo che cavalcava un pesce gigante. La principessa Viola si stropicciò gli occhi. Era di gran lunga la cosa più strana e più divertente che avesse mai visto. Scoppiò a ridere. Rise così forte che le sue risate furono sentite in tutto il castello. Il re Monaco, che era nella sua stanza, sentì il suono di sua figlia che rideva. Deve essere Viola! Finalmente qualcuno ha fatto ridere mia figlia! Il re si alzò e andò immediatamente nella sua stanza. Che cosa è successo, Viola? Cosa ti diverte così tanto? Tenendosi la pancia dalle risate, Viola indicò la finestra. Oh, padre! Non riesco a smettere di ridere per quell'uomo che cavalca un pesce invece che un cavallo. Sono innamorata di lui. Suo padre si precipitò verso la finestra e vide Ralph cavalcare un pesce gigante e iniziò a ridere insieme a Viola. Ma la gioia di sentire sua figlia ridere per la prima volta svanì immediatamente quando il re si ricordò del suo annuncio. Mandò immediatamente i suoi uomini a chiamare questo sconosciuto a cavallo di un pesce. Voglio incontrare quest'uomo. Ralph fu presto portato davanti al re. Come ti chiamano, signor? Ralph, vostra grazia. Vivo nel vicino villaggio di Pasadena. Cosa fai oltre a cavalcare un pesce, Ralph? Beh, maestà, pesco anche. E a volte li vendo al mercato. Vedete... Oh, un paesano! Se solo immaginassi le conseguenze della mia decisione! Quale decisione, vostra grazia? Il re Monaco spiegò a Ralph tutto quanto. Ralph era felice. Non ho altra scelta se non quella di darti in sposa la mia bellissima figlia. Ralph sorrise. Non solo il re doveva dargli 50 milioni di monete d'oro, ma doveva anche lasciarli sposare sua figlia. Quella stessa notte, il re Monaco visitò sua figlia Viola per riconfermare il suo annuncio. Sei sicura di volerlo sposare? Nessuno mi ha mai resa più felice in tutta la mia vita. Non mi importa quanti principi, re, conti, duca mi hai messo di fronte. Non sposerò nessuno tranne il cavaliere del pesce. Inoltre, hai promesso che chiunque mi avesse fatta ridere mi avrebbe sposata. Non trovando altro modo, Re Monaco invitò Ralph a cena e a passare la notte. Ralph e Viola si incontrarono e si innamorarono subito. Ma Re Monaco era molto meno elettrizzato per l'intera faccenda. Durante la cena, il re si rese conto che Ralph era un uomo incredibilmente comune. Il modo in cui mangiava, il modo in cui vestiva, il modo in cui parlava e i suoi modi. Nessuna raffinatezza. Questo lo rendeva molto, molto preoccupato. Dopo cena, andò a trovare il suo primo ministro, Nilman, che era il suo consigliere più vicino. Non posso rimangiarmi la mia parola, ma non posso permettere a mia figlia di sposare questo cosiddetto cavaliere del pesce. Quindi lo lascio a te. Impedisci che questo matrimonio abbia luogo. Fai quello che devi fare. Tirami fuori da questo. Nilman rifletté per un po' e poi annuì. Il re Monaco era molto soddisfatto perché pensava che il suo ministro si sarebbe preso cura della situazione. Quello che non sapeva è che Nilman aveva deciso di annullare il matrimonio facendo sparire Ralph da Pasadena. Quella notte, le guardie di Nilman si intrufolarono nella stanza degli ospiti dove Ralph stava dormendo, lo legarono e lo misero in una botte che sigillarono ermeticamente e gettarono in mare. Ralph si svegliò quando si rese conto che stava per affogare e immediatamente utilizzò la pietra lucida. Vorrei che questa botte fosse una barca. La botte crebbe e crebbe fino a diventare una barca davvero grande. Vorrei che questa barca mi portasse a Pasadena. E subito la barca iniziò a fluttuare nell'aria. Ralph stava tornando a casa con un sorriso fiducioso in faccia. La mattina dopo, quando scoprì che Ralph non c'era più, Viola ne fu devastata. Padre, manca l'unica persona di cui mi sono innamorata. Per favore, trovalo, perché non posso vivere senza lui. Re Monaco si vergognava. Venne immediatamente organizzata una ricerca, ma non c'era traccia di lui. Il re Monaco ora era teso e preoccupato per sua figlia. Che cosa hai fatto? Dov'è? Devi riportarlo indietro. Altezza, non posso. L'ho chiuso in una botte e l'ho gettato in mare. Hai fatto cosa? In altre parole, mi sono liberato di lui. Io non ti ho mai chiesto qualcosa di così estremo. Non pensavo che fosse abbastanza buono per mia figlia, ma non volevo certo mettere in pericolo la sua vita. Qual è il tuo problema? Il re Monaco ora era profondamente preoccupato. Ignaro del fatto che Ralph stesse bene, andò immediatamente da sua figlia a confessare. Nel frattempo, la nave di Ralph arrivò al porto trionfante. Presto andò dalla sua amata e le disse tutto. Il re Monaco, che aveva appena raggiunto per confessare tutto a sua figlia, fu scioccato nel vedere Ralph vivo. «Padre, qualcuno non è felice del mio matrimonio con Ralph? Lo hanno gettato in mare!» «Devi scoprire chi è stato! Un atto così vergognoso non deve rimanere impunito!» Re Monaco si vergognava profondamente per quello che aveva fatto. Non riusciva più a tenerlo nascosto. E così confessò immediatamente tutto a Ralph e a Viola e chiese loro perdono. «Chi sono io per perdonarla, vostra grazia? Voglio solo dire che sono innamorato di vostra figlia e voglio sposarla. Questo è tutto ciò che voglio.» Re Monaco fu immensamente colpito da Ralph. Diede loro la sua benedizione. Il matrimonio ebbe luogo proprio in quello stesso giorno. Neilman fu mandato via dal regno e Re Monaco offrì a Ralph metà del suo regno. «Grazie, maestà, ma non desidero il suo regno o nessuna ricchezza del mondo.» E non appena lo disse, si svegliò e si ritrovò in una piccola capanna. Si voltò e trovò sua moglie che dormiva accanto a lui. «È stato il sogno più folle di sempre!»